Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo del romanzo Ternitti, scritto da Mario Desiati e pubblicato da Mondadori. La protagonista è Mimì, una ragazzina di 15 anni che è costretta a lasciare la Puglia per seguire il padre che va a lavorare in Svizzera in una fabbrica di Eternit. Ecco come ne parla l'autore con Alessandra Tedesco. Mimì è la protagonista di Ternitti, è una, all'inizio una ragazzina di 15 anni che viene letteralmente tirata fuori dal mare del Capo, dal mare salentino, e portata in una portata nel centro, nel cuore della Svizzera, dove la famiglia ha iniziato a lavorare, ed è emigrata come tantissimi suoi concittadini. E poi la seguiamo per oltre 40 anni di vita, finché lei non torna nel suo paese. Il suo paese è molto cambiato rispetto a quando lei era una ragazzina che si tuffava nel canale d'Otranto. È un paese che ha cambiato l'aspetto, ha cambiato antropologicamente, e le persone che sono tornate, molte delle persone che sono emigrate, si sono ammalate, e si sono ammalate di amiantosi perché hanno lavorato nelle fabbriche di Eternit e di amianto. Da qui anche il titolo del libro, Ternitti. Ternitti è una parola dialettale che ha diversi significati. Poi il dialetto è veramente un prodigio. Ognuno di noi, penso, coltiva nel suo cuore una parola dialettale magica del proprio dialetto, del proprio paese, anche della propria contrada, perché il dialetto veramente non ha confini. E una di queste parole per me era Ternitti, perché vuol dire Eternit, ma vuol dire anche fabbrica in genere. Infatti spesso si dice vado a lavorare al Ternitti, quindi è un sinonimo di lavoro, ma è anche un sinonimo di tetto, perché col tempo, quando la maggior parte delle costruzioni erano in amianto negli anni 60 e 70, il tetti erano in amianto, si diceva il Ternitti, il tetto. Parlo sempre di dialetto salentino. Tra l'altro in ogni paese c'è un modo diverso di dire Ternitti, c'è chi dice Tarnitti, Tornitti, insomma di tutto di più. E questo dialetto, questa parola quindi in questo libro ha tutti questi significati, ha il significato di Eternit, ha il significato di fabbrica, ma anche il significato di tetto nella parte finale del romanzo. Tornando a Mimì, una volta emigrata in Svizzera, che cosa le accade? C'è un incontro in particolar modo che le cambia la vita, quello con Ippazio? Sì, loro vivono, la famiglia di Mimì, come tante famiglie del sud che emigrano nei paesi del nord, in Svizzera soprattutto, vanno a vivere in dei posti comuni, cioè di solito una sorta di luoghi di accoglienza dove andavano le prime settimane le famiglie finché non trovavano una sistemazione migliore. Di solito erano delle fabbriche abbandonate. In queste fabbriche abbandonate spesso si creavano dei autentici centri sociali. In queste fabbriche abbandonate sì, spesso, per esempio, una vetreria come quella del romanzo. E qui Mimì conosce un ragazzo un poco più grande di lei che lavora come operaio nella fabbrica, e un ragazzo che è pieno di malinconie, di silenzi, che la conquista con un gioco di prestigio. Una notte nel buio, nell'oscurità, si incontrano in un bagno, per sbaglio si ritrova lei nel bagno dei maschi, e lui con i fiammiferi inizia a scorgerle il viso, i tratti del viso, inizia a raccontare chi è e da dove viene, e semplicemente col fuoco e con le sue parole e la sua, anche forse l'essere un po' più grande di lei, la conquista. E lui è veramente un principe del fuoco all'inizio, perché lui lavora col cemento che ribolle sotto i suoi piedi nella fabbrica. Assiste a delle scene drammatiche di persone che finiscono negli antoforni, e con la scintilla conquista questa donna. Però lui non sarà fedele alle premesse della sua giovinezza. A un certo punto poi ritroviamo Mimì che vive da sola con la figlia, perché ha avuto una figlia nel frattempo. Che tipo di donna hai voluto descrivere con questa Mimì? Come mio ho voluto descrivere è un personaggio totalizzante, e ho voluto descrivere la donna per la quale sono innamorato, della quale sono innamorato. Inevitabilmente uno scrittore non dovrebbe dirlo, ma mi capita di uno scrittore spesso si innamora dei personaggi letterari e a me è capitato, insomma, il coraggio innanzitutto di Mimì, fuori dal comune, non, fuori dal comune non per una donna, ma fuori dal comune, insomma, in genere, e la grazia e la gentilezza di questa donna con la quale lei affronta i problemi della vita. Cioè, la grazia sta nel movimento, nel saper affrontare anche le problematiche più complesse con serenità, con intelligenza, lucidità e anche gentilezza, che è diversa dalla cordialità e della cortesia. Infatti lei continuamente su queste che sono autentiche qualità dell'anima lavora per tutto il libro, nel senso, per tutta la sua storia. Lei continuamente cerca di fare, medita sull'affrontare le situazioni in maniera meno traumatica possibile. Solo quando la situazione è drammatica lei farà gesti eclatanti, gesti che, molto, molto forti. E ho voluto raccontare una di quelle tipiche donne del dopoguerra, perché spesso si dice sempre che l'Italia ha fatto un grande boom economico per merito degli italiani. Se noi andiamo a fare un ragionamento molto semplice, quasi proprio come dire, logico su quello che è stato il dopoguerra, i maschi italiani erano segnati dalla guerra, erano morti, erano mutilati, gli italiani erano soprattutto italiane e il boom l'hanno fatto loro soprattutto, più che gli italiani. E donne coraggiose che la letteratura ha raccontato, il cinema ha raccontato in maniera mirabile. Ecco, io pensavo a Mimì una sorta di cinematografica Anna Magnani, una la mamma Roma di Pasolini, cioè una donna davvero con una forza che gli viene da dentro e che riesce a trasferirla alle persone che ama, che gli stanno attorno. In questo romanzo si parla anche dei morti per Eternit, appunto nelle fabbriche, c'è anche una sorta di denuncia sociale. È un elemento importante, perché per me è importante anche la storia d'amore, è importante l'esperienza di una donna nel sud, dove essere donne sole secondo me è più difficile che essere donne sole in altre parti dell'Occidente. E questo è un tema importante, quello dell'amianto, per diverse ragioni. Dico la cosa che più mi ha colpito, fra le tante storie che mi hanno colpito, due in particolare. Una è che esisteva, per esempio, un'assicurazione che in un certo senso, ovviamente si tratta semplicemente di fondi, però dei fondi che potevano aiutare molte famiglie che sono state colpite da questa malattia. Pochissimi l'hanno saputo tanto tempo dopo, quando erano prescritti i temi o quando era morto il capofamiglia che spesso aveva lavorato. E la seconda cosa è che il capofamiglia era morto, ma dopo tanti anni, siccome l'incubazione dell'amiantosi è di 30-40 anni, poco alla volta si sono ammalate le mogli di questi capifamiglia, perché loro lavavano le tute piene di asbesto. Quindi da un gesto d'amore si sono letteralmente contaminati, come se fosse stata una peste. Infatti l'ultimo capitolo del libro si chiama Peste, anche se l'asbestosi non è una malattia che contagia, però in questo caso si è creato un contagio, anche se la malattia era un mesotelioma. Oltre a essere uno scrittore, sei anche direttore editoriale di Fandango Libri. Che cosa deve avere un libro per colpire la tua attenzione? Sappiamo che in Italia ci sono tantissime persone col classico romanzo nel cassetto. Ma noi, il lavoro che faccio a Fandango Libri, abbiamo un'idea, abbiamo fondato una collana che si chiama Galleria Fandango e abbiamo un'idea ben precisa su tipo di scrittori che cerchiamo e che ci piacciono. Parlo al plurale perché siamo una squadra di editor che lavora insieme a me, cioè Alessia Polli, Tiziana Triana, Manuela Madamma, che sono le persone che con me ogni giorno partecipano a scegliere nella scelta dei titoli. Una grande attenzione alla realtà italiana e a quello che accade in questo paese, a scrittori che non abbiano paura di occuparsi anche di cose scomode, a raccontarle non necessariamente con il romanzo, ma anche con altre forme ibride, con forme narrative come l'inchiesta narrativa, come la fiction non fiction, come la raccolta di reportage. È uscire un po' dal seminato di quello, la sfida un po' era quella di uscire dalle categorizzazioni un po' che stanno nelle librerie. Si chiude qui il Cacciatore di Libri, questo era Mario Desiati, autore di Ternitti.